secondo me bisogna partire dal video per poi arrivare a spiegare che cosa contiene quel video, che è poi quello che vediamo sempre quando si apre, diciamo, una discussione intorno allo stupro e alla violenza di genere. Cioè lui è riuscito a mettere insieme tutti i pregiudizi che hanno a che fare con questa questione. Il meccanismo, diciamo, più evidente che lui ha messo in atto è aver usato quello che questa donna ha fatto dopo la violenza, oppure il fatto che ha denunciato, diciamo, secondo lui non ha denunciato subito, che comunque sono passati 8 giorni e è un tempo brevissimo in realtà. Appunto, lui ha, come dire, ha usato questo argomento e ha preteso per il figlio la presunzione di innocenza per suggerire invece automaticamente che la colpevole fosse lei, e quindi mediaticamente ha sostanzialmente innescato un processo a lei, l'ha messa al centro, e si chiama vittimizzazione secondaria della vittima, e quindi è come se avesse trasferito in parte su di lei la colpa di quanto le era accaduto. Ovviamente i movimenti femministi, i centri antiviolenza, anche alcune giornaliste hanno cominciato a spiegare che non esiste un tempo giusto per denunciare, soprattutto quando quel giusto spesso e paradossalmente lo stabiliscono proprio le persone che negano a prescindere la violenza. L'unico tempo di cui si può parlare è ovviamente il tempo necessario alla persona per poter prendere parola su quanto le è accaduto, e il tempo, diciamo, della denuncia quando avviene, perché poi ricordiamo che avviene molto poco, non dice assolutamente niente sul fatto che la violenza sia accaduta oppure no. Detto questo, ricordiamo anche che, diciamo, la legge italiana prevede un limite di tempo massimo entro il quale si può presentare la querela, e che già dal 96, quando c'è stata una grande riforma, diciamo, sulla questione della violenza contro le donne, quindi già nel 96 questo tempo era il più lungo di tutto il codice penale, cioè 6 mesi, mentre il termine generale per tutti gli altri tipi di reati era di 3 mesi. Nel 2019, con la riforma cosiddetta del codice rosso, il termine è stato esteso a 12 mesi. Questa estensione dei tempi della querela è stata stabilita proprio in ragione della peculiarità di questi reati, o meglio, diciamo, delle loro competenze. Quindi non è che una donna il giorno dopo non sappia di aver subito una violenza, ma l'esposizione dei fatti e tutto il processo di elaborazione della decisione che può portare alla denuncia invece è un processo molto lungo e non è comparabile con nessun'altra forma di violenza o di reato. Diciamo, al di fuori delle persone che ne sanno o che lottano, insomma, contro questo tipo di narrazione, invece il video è stato strumentalizzato a livello politico, cioè c'è chi l'ha usato per rivendicare delle leggi che ha sostenuto e fatto approvare, c'è chi da padre ha portato la propria solidarietà Grillo, e anche qui si aprirebbe tutto un altro capitolo, no? Che cosa significa da padre porto la mia solidarietà? Non è chiaro, cioè quello che io vedo è proprio la cultura dello stupro che per contagio, no, continua in qualche modo a replicarsi, questa narrazione che mette i padri al centro, eccetera. E poi c'è ovviamente chi ha usato il video per attaccare Grillo, nominiamo Salvini, che molto spesso si pronuncia sulla violenza contro le donne solo quando a commetterla non sono, come dice lui, i cosiddetti italiani, no? E invece tace sulla violenza in generale. Io volevo farti una domanda sul discorso, in qualche modo, del garantismo, ma non nel modo in cui è stato affrontato per attaccare Grillo, per esempio, ma piuttosto perché tu nel tuo articolo citi anche la sindrome di Cassandra, citando un libro di Rebecca Solnit. E da questo tema, diciamo, secondo me deriva molto anche l'approccio femminista che si ha rispetto alla violenza, quelle sorella io ti credo, che è una pratica che va al di là del discorso sul garantismo o giustizialismo, insomma è proprio una pratica femminista che ha radici anche storiche importanti, diciamo, pratica dei centri antiviolenza, dei movimenti, che supera questo discorso ed è molto importante quando si parla di violenza, proprio per questa cosa che citi tu, no? Che tu appunto definisci come la sindrome di Cassandra nel tuo articolo. Solnit usa la sindrome di Cassandra per spiegare, appunto rifacendosi al mito, come sempre le donne non vengano credute, e questa è la narrazione dominante. Dall'altra parte i movimenti femministi invece dicono immediatamente sorella io ti credo, proprio per rovesciare tutto questo paradigma. Ricordiamoci sempre, ma noi lo sappiamo, uomo, diciamo, però sembra che sia sempre bisogno di ricordarlo al di fuori. Le femministe o i giornali non fanno il processo a nessuno, cioè quella cosa saranno poi i tribunali a stabilire se rinviarlo a giudizio, eccetera, poi noi potremmo anche commentare, diciamo, i fatti. Però io non sono una giudice, non ho assolutamente il potere di mandare in galera nessuno. Detto questo, posso avere un'opinione e mi sento molto libera di esprimerla. E la mia opinione è che ogni volta che una donna prende parola per raccontare una violenza non viene creduta, e quindi io e noi, diciamo, come insomma, come femminista, come movimenti femministi, io penso che vada proprio rovesciato e che quindi il nostro ruolo, ma quello di tutti e di tutte al di fuori dei tribunali, sia quello invece di mettersi all'ascolto, di saper ascoltare, di accogliere questo racconto che può essere molto doloroso e di sostenere e proteggere la donna che ha deciso di farlo. Perché poi il fatto che invece venga aggredita da tutte le parti, in qualsiasi direzione essa poi lei possa guardare, è anche il motivo per cui poi le donne non denunciano. Un altro tema, diciamo, che ha reso particolare questa vicenda, nel suo non essere appunto particolare, ma in realtà riproduzione di logiche e sistemi che già sono in atto, no? Perché, come ricordavi tu, infatti sono moltissime le persone che per esempio non denunciano proprio a causa di meccanismi di questo tipo, della vittimizzazione secondaria, ovviamente anche per tanti altri motivi. Però questo caso è stato non solo emblematico e rappresentativo, ma anche peculiare e particolarmente sgradevole nella posizione di potere occupata da Grillo. Certo, che poi anche lì ritorniamo quindi sempre alla questione centrale che sempre i movimenti femministi hanno portato in evidenza, cioè lo stupro non ha a che fare in nessun modo con il desiderio sessuale e con il sesso, ha a che fare con una dinamica di potere, di controllo e di dominio. Nel caso di Grillo questa cosa è stata molto evidente proprio perché, diciamo, il suo ruolo e il suo potere mediatico è molto evidente e quindi, come dire, è stato un masso gigante che lui ha messo in mezzo alla stanza facendo questa cosa. Tu dicevi la cultura dello stupro, la vittimizzazione secondaria, vero, sono i motivi principali per cui non si denuncia. Un altro che non viene pochissimo raccontato è che le forme più gravi di violenza contro le donne, compreso lo stupro, sono esercitate da persone che si conoscono, cioè gli stupri vengono commessi in più del 60% dal partner, poi dai familiari, poi da conoscenti, quindi non da sconosciuti, mentre nell'immaginario collettivo si pensa allo stupratore che ti acchiappa nel buio fuori dalla stazione, e non è così. Questo fatto, cioè la familiarità, diciamo, con le persone che poi agiscono questa violenza, va tenuta molto ben presente quando si parla della difficoltà di denunciare o anche con i tempi, perché non è una decisione che riguarda solamente te, insomma, mette in piazza e rompe tutta una serie di relazioni dentro le quali fino al giorno prima tu eri inserita. Poi c'è il senso di colpa che si prova e che deriva appunto paradossalmente, no? E che deriva dal fatto che da millenni di cultura che ci dicono che se una donna denuncia uno stupro lo subisce, le si ritorcerà contro, che la colpevolizza, per cui in qualche modo ci si sente colpevoli di quello che è successo. Poi c'è l'umiliazione, c'è la vergogna, eccetera. Poi c'è chiaramente, come dire, un'elaborazione molto complicata. Tra l'altro in questi giorni sono usciti moltissimi contenuti, poi su questo volevo farti l'ultima domanda, ma per esempio ho letto di recente il post di una survivor e attivista che commentava appunto il video di Grillo, in particolare il passaggio sulla questione dei lividi o comunque insomma dell'esibire la violenza, e poi sul fatto di cosa ha fatto il giorno dopo la persona che ha denunciato violenza, in cui commentava fondamentalmente sottolineando anche come questa cultura qua sia anche quella che non ci vuole sopravvissuta in qualche modo, no? Nel senso che diceva, cioè ci volete proprio morte o comunque vittime e ferme in questa vittimizzazione, ecco, c'è proprio anche l'idea che non possa esserci un approccio non vittimizzante, diciamo, alla violenza. Certo, è partito anche l'hashtag il giorno dopo con il quale appunto tantissime donne sopravvissute a una molestia, un abuso, uno stupro, hanno cominciato a raccontare quanto sia appunto drammaticamente normale non aver denunciato immediatamente, non aver denunciato affatto o aver cercato di rimuovere quello che stava succedendo. Quindi anche lì di nuovo c'è sempre il pregiudizio che esiste la vittima ideale, no? Che da una parte è la donna per bene, che non ha bevuto, che non esce di notte a una certa ora, eccetera, e dall'altro però è la vittima sanguinante che si presenta al pronto soccorso. Anche qui vuol dire che non c'è proprio nessuna forma di conoscenza, ascolto e comprensione rispetto proprio invece a quella dinamica lì. Tra l'altro l'altro sulla stampa c'è un'intervista con la testimonianza della ragazza che ha subito violenza, che insomma io consiglio di andare a leggere. Diciamo, una cosa bella invece del dibattito che si è aperto è che sono usciti anche molti contenuti, molte prese di parola, articoli di giornaliste, compagne, quindi ti chiederei anche se hai altri, cioè, consigli su comunque quello che è uscito in questi giorni da movimenti e giornaliste. Sì, beh, c'è Giulia Blasi, c'è un articolo molto buono di Giulia Blasi su Valigia Blu, poi c'è Luisa Betti su Donne per Diritti, e poi io consiglio su Internazionale, non è riferito al caso Grillo, ma secondo me vale la pena rileggerlo, che cos'è uno stupro e che cosa si racconta e come si racconta.